Wall Street, i viaggi del lupo. Eccoci qua, buonasera a tutti. Ciao Domenico. Ciao. Ti ho colto alla sprovvista, eh? No, e più che altro stavo pensando per i nostri compari di disavventure, Io che non fine so, faranno. non lo Beh, so. Io non so cosa succederà questa sera, se riusciranno ad arrivare. questa sera è il 25 maggio, È iniziamo a dire 25 questo. maggio. Stavo guardando un po'. Maggio? Oggi Sì, maggio. siamo a maggio, sì. Avevamo detto che forse questa era l'ultima puntata, in realtà vi ho Abbiamo fatto. la Ecco, sorpresa. infatti, vi ho fatto una pernacchia, in realtà non è l'ultima puntata. Non è Vabbè, l'ultima puntata ma perché ci. continueremo ancora. Però ci stiamo avvicinando, dai. Sì, adesso vediamo bene In base quando al far calore, finita. Infatti, in mettiamola così. base alla temperatura climatica di questo posto. Beh, sicuramente settimana prossima non suoneremo perché sarò a Non suonare. suoneremo, non Sì, faremo il ciao. programma. Non faremo programma perché sarò a suonare alla Notte Bianca al primo. Cos'è che è? Il primo giugno a Cardano. Cardano al campo e quindi non ci Non si saremo fa qua. Quindi niente. sicuramente riprenderemo poi l'8 giugno e vediamo. Secondo me le condizioni climatiche adesso stanno iniziando a tornare normali. Dici? Non lo so, cioè, spero un po' di fresco ancora. Secondo me non ci siamo più, non ci siamo più. Mannaggia. Stavo guardando un po' cosa è successo oggi nel mondo, ma in realtà sono successe molte cose in Italia. Poca roba, diciamo, estera. A parte, vabbè, è uscito l'album, sicuramente la conosci il brano, però, di Mike Oldfield, Tubular Bells, il 25 maggio. Sì, la Non me lo conosci, la ricordo, sai. conosci, la conosci. L'abbiamo anche messa forse in Wolf Trips. Sì. Invece, in Italia, invece, è successo di tutto il 25 maggio. Praticamente Sergio Silvestre aveva vinto l'edizione di Amici, forse del 2016, ecco. E poi c'erano diverse uscite, Laura Pausini, Negramaro, Max Pezzali. Insomma, è Intonacci. una giornata dove sono uscite un sacco di roba italiana. Anche Invece Gigi D'Alessio, anche Gigi D'Alessio, possiamo anche Emma, evitare di ricordarlo, però vabbè. Diodato. Diodato sì, scrive da una vita. Paroliere. Colonne, no, colonne sonore di film anche abbastanza famosi. Vabbè, intanto che cerchiamo di capire che fine hanno fatto quegli altri due bischeri che Io non dovevano. so, si sono persi. La vedo grigia che arriveranno a breve, però almeno speriamo che Secondo siano me sulla ancora strada una giusta. ventina di minuti. Sì, stanno facendo un trips, ecco, mettiamola così, va. Andiamo a ascoltare il primo brano che è di S.G. Lewis con Aura, Aura. che non è Aurora, infatti la leggo sempre storta, in realtà è Aura. Andiamo a ascoltarlo. If you want, just say you want, 'cause I'm not holding. E questo bella. Brano era di S.G. Lewis. Bella, bella. Che stavo leggendo, che è nato a Reading, nella, l'Inghilterra. Visto il gioco di parole. Questo gioco di parole. Che poi effettivamente sì, esiste davvero. Cioè, io pensavo, ho detto... Se è nato a Reading vuol dire sì, che però esiste. È strano. Cioè, cioè, mi sembra strano un po' se si chiama leggendo, no? Come lo puoi tradurre? Reading, sì. Eh sì, leggendo. Così, esiste ed è praticamente nel... in, come si dice, non a Londra, in Inghilterra, e lui è un DJ di musica dance elettronica. Questo qua è un brano più funky, vabbè, non è male, dai, non è un pezzo brutto. No, è molto soft come inizio serata. E beh, ci vuole, dai. Aspetta che stavo cercando di capire dove è sto posto Reading, perché mi ha incuriosito. Ma non mi aiuta. Vai Google. Su Google Maps e vedi quello robe che sto strane. Quello che sto facendo, però, oggi non aiuta molto Internet, la connessione. Non cammina. Vabbè, allora facciamo così. Passiamo da Londra. Che, ma sono fissato, non è Londra, dall'Inghilterra. Per me United Kingdom è Londra. Passiamo dall'Inghilterra al Belgio, invece, con quest'altro DJ. Bello, bello, mi piace il Belgio, sai? Sì. Sono stata più volte. Beh, c'è tanta roba interessante. Io mi ricordo che siamo andati a mangiare le costine con la birra direttamente in abbazia. Giusto. Buonissimo, cioè è stato fantastico. Poi diciamo che il tuo vecchio porta sempre cose buone dal Belgio. Quando va? Quando va? Vabbè, quelle volte che è andato. Come si chiama la birra quella che ci porta sempre del Belgio? La Leffe? No, la Leffe ormai è diventata commerciale. La Schupp, quella che abbiamo anche il libro. Non mi ricordo, mi sembra un nome, Westminster, una cosa del genere. No. Vabbè, ascolta, facciamo così. Se qualcuno lo sa, ci vuole dire una delle birre del Belgio, proprio famose del Belgio, che non sia la Leffe, perché tanto ormai la Leffe è diventata commerciale come sì, birra. Ma anche la Schupp la vedo spesso. La Schupp, sì, sì, sì. Vabbè, ricordiamo il numero allora. 338-222-8983. Intanto lasciamo il prossimo. Potete scriverci anche WhatsApp, mandarci vocali, oppure se ci volete chiamare direttamente in diretta, 0331 223 0000. Allora, quindi passiamo al Belgio. Lui è The Magician, che è un DJ del Belgio. Il brano si chiama Las Vegas. Yeah, yeah. Forever yours. è successo? Niente, dovevo tossire. Ah, vabbè, vabbè. Allora facciamo così, intanto abbiamo ascoltato The Magician con Las Vegas, intanto tossisci, muori, fai quello che devi fare, così intanto recuperi. Poi ti riabilito al servizio voce, visto che il servizio dati oggi non va. Tranquillo, il servizio dati oggi ci sta dando dei grandissimi problemi. Vabbè, dai, può succedere. Sì, sì, capita. Quindi tu hai tecnologia. Tu hai fatto un po' di viaggi in Belgio, no? C'eri stato sì, in Belgio? Sì, sì, sì. No, io non ci sono mai stato. Se vuoi ti ci porto, dimmi quando. No, vabbè. Anche un fine settimana. Sì, sì. Invece il DJ che ascoltiamo dopo viene da Amsterdam. Nemmeno lì ci sei stata, giusto? Perché silenzio. Per quella faccia? Perché siete cattivi. Io chiedo di andare ad Amsterdam da tempo. Sì. E nessuno mi ci porta. Quindi chi vuole venire con me ad Amsterdam e mi vuole portare, può scrivere al 338-222-8983. Intanto mi devo ricordare di aprire il WhatsApp della radio, perché sennò uno può anche scrivere, ma sennò scrive nel nulla. Va bene, il prossimo DJ è un duo elettronico proprio di Amsterdam, come dicevo prima. Si chiamano Detroit Swindle. Si pronuncerà così? Swindle. Ah, sì. Hanno prodotto veramente tantissima musica, anche perché sono in giro dal 2011 e suonano praticamente ovunque tranne che in Italia, giustamente, perché la musica decente ovviamente in Italia non arriverà mai. Dai. Ma sì, vabbè, quelle sono le mie fisime. E il prossimo brano quindi che andiamo ad ascoltare, intanto che ci andiamo anche a informare che fine hanno fatto. Sì, vorrei capire dove sono andati a finire. Secondo me sono arrivati anche loro ad Amsterdam con la macchina invece che arrivare qua a Samarate nella vero, sede vero. Della radio. Secondo me li troviamo, cioè dopo quando finiamo il programma li chiamiamo e sono in un posto sperduto, sconosciuto, dobbiamo andarli a recuperare perché intanto, allora, il prossimo brano si chiama Yes, No, Maybe. Quindi potrebbe andare bene, sì, no, proprio forse. Potrebbe andare bene proprio per Fabio per e Tony, che non si sa se arrivano, sì, no, forse. Andiamo ad ascoltare quindi Detroit Swindle con Yes, No. E gliela dedichiamo. Maybe. I can't decide. Your love is sending me frown. Thinking out loud. Baby, come, let's get down. I can't decide. Your love is sending me frown. Try me. things have been difficult, it's true. Go eye to eye. Maybe we can dance this thing through. Ooh, baby, let's groove it out. I wanna see you smooth this out. Let's take it round and keep it moving all night. Ooh, baby, just take it down. I wanna see you spin around. Let's take it down one more time. Cause baby, I can't decide. Your love is sending me round. Thinking out loud. Baby, come, let's get down. Let's get down. Eh sì, sono arrivati alla fine, visto? Sì, ho visto, i due sopravvissuti. Che cazzo avete combinato? Vi avevamo dedicato anche la canzone Yes, No, Maybe. Cioè sì, no, forse. Potrebbe. Potrebbe anche andare. Effettivamente è un sì. Io direi che l'accendiamo con un sì. Buonasera. Sì. Buonasera Tony, buonasera Fabio. Buonasera. Dove è andato? È sotto la scrivania. È un'immagine orribile, però no, così. No, mi hanno detto che lo streaming video è bloccato. Meno male, perché sennò. No, però effettivamente devo dire la verità qua. Adesso usiamo altri termini. Nel senso, sta assemblando la console. Non mi piaceva il termine che avevamo usato prima. È meglio così. Perché, era molto ambiguo, sì, perché adesso non so chi dei due bischeri metterà musica, però ci sarà anche un pezzettino. Io penso qualcosina, dai. Va bene, la va bene. La mia chiavetta dai. Tutta mi miscelata. Quindi la bottega è aperta. Bottega è aperta. Ecco, dovremmo fare per ormai l'anno prossimo la un ginglottino davvero di Raimondo e Vianello, ma non quando parlo io e lei, ma quando parlano loro due, perché sono peggio di me lei. Sì, è vero. Molto amore, peggio. Non lo so. No. Non male che dovevamo riorganizzare la nuova stagione. No, la riorganizziamo bene. Però, vabbè, ma qualche siparietto ci può stare. Il problema è quando poi dopo lo fai tutta la puntata, no, però. No, magari l'ultima mezz'ora. Secondo me l'ultima mezz'ora è quando mai il delirio è iniziato. Alle stelle. Vabbè, allora rimaniamo seri. Il brano che ho ascoltato prima era di un gruppo di Amsterdam, Detroit Swindle. Perché? No, beh, dici il gruppo... Rimane serio, è Amsterdam. Vabbè, ma Amsterdam c'è anche un lato serio. Sì, Van Gogh. Sì, vabbè. Scusami, un linea a vento? Le biciclette? Vero, vero. Una I città. Mulini a vento, quelli di. Dei Promessi Sposi. Dei Promessi Sposi? Sì. Mi sa che lei è andata ad Amsterdam e è tornata indietro, ma lei non il cervello. Va bene. No, e... Don Quixote è quello. Abbiamo ascoltato un brano un po' funky. Ho sbagliato il libro. Infatti te l'ho detto, ma che cacchio stai a dire? Io me lo sono fumato. Sì. E dicevamo, questo qua era un brano un po' più funky, house funky, non lo so, funky house. Il tuo genere quasi. Ma cos'è che stai facendo? No, sto sistemando la fotocamera con la webcam. Passiamo invece, cambiamo proprio genere, visto che siete arrivati voi, giusto per movimentare un po' la serata. Non lo so, perché non è proprio un pezzo bello movimentato. È il pezzo nuovo di Drake, non so se l'hai mai sentito. Sì, vabbè, non è proprio il massimo in... È anche un bel ragazzo lui, se è quello. È questo è bello, sì. Beh, Rihanna non so cosa ci ha trovato. Però. Sì, è il compagno attuale? Attuale di Rihanna. Se non lo so erro. Perché lei comunque. Vabbè, ma li usa come le patatine. Tra, lei, infatti. Tra lui e Chris Brown, che poi. Come la patata. Sì. Ecco. Vabbè, ci mancava, sì. Non dai. Lo dice mai. Allora, il brano si chiama God's Plan. E il video è molto struggente, mettiamolo così. Datevelo a guardare. O comunque dopo lo posteremo sui vari. E meno male che siamo arrivati, grazie. Vedi, God's Plane è proprio anche questo, è la giusta dedica per voi, nel senso, nei piani, i piani di del Dio. God, no, ma era Dio, di arrivare, cioè, qua. Che, ah, in senso, ma pensavo che nei piani di Dio ci sarò anch'io, credo, faccio anche forse la rima. Però, sì, come magari la canzone di prima, yes, no, maybe. Sì, potrebbe. Ragazzi, io mi tocco dappertutto. Vabbè, andiamo ad ascoltare quindi Drake con God's Plane. Lyrics. Lyrics. Blessings, blessings. I've been moving, kinda starting to trouble with me. Trying to keep it peaceful, it's a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you're loving on me. Yeah. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that'll live me. Shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes, I won't, yeah. I forget sometimes, I don't, yeah, don't, yeah. I finesse on Western Road, yeah. Might go down on G-O-D, yeah. I go hard and such a G, yeah, wait. I make sure the noise I leave, sure. And still bad things, there's a lot of bad things. If they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. If they wish and wish and bad things, there's a lot of bad things. If they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got a tatted on me. 81 to bring the crushes to the party. And you know me, turn the O2 to the O3 dog. With a 40 alley, they've been on me. Imagine if I never met the Boskies. God's plan, God's plan. I can do this on my own, baby, no, man. Someone watching this shit close, yeah, close, man. I've been missing Scarlet Road, yeah. Might go down on G-O-D, G-O-D. I go hard and such a G, yeah, wait. I make sure the noise I leave, it's still bad things, there's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah, yeah. Bad things, there's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bad things. Vabbè, qua siamo sul rap, soul, R&B. No, no, no. Meno male che non è la trap. No, no, non è trap, no, no, no. Trap futuristico. Ma avete visto che Young Signorino fa anche la serata all'Alcatraz. No, ma guarda che ormai è una superstar. Cioè proprio special guest. Special quest. Sì, ma lui almeno, cioè, è fatto così, sa, anche veramente così. No, ma gli altri non ce la fanno e fanno finta. Tony, io non ce la posso fare a sentirla quella canzone. Cioè, basta non ascoltarla. Cioè, ogni volta che l'ascolto. No, mi fa ridere che poi, guardando su iTunes la copertina del mini LP, sì, è un fotogramma del video. Cioè, c'è neanche lo sbattimento di fare una copertina. Però posso dirti la verità, è un genio del marketing. Chi lo sta seguendo, eh? Sì, vabbè, è un genio del marketing. Oppure siamo talmente tanto rimbambiti che riusciamo a far diventare famosi anche prodotti schifosi. Nel senso, può essere anche quella la questione. A me mi sembra che proprio funziona così. Fai un video, fai finta di fare un po' di trap e sei famoso. Boh, non lo so. Ma non lo so, perché se io e Fabio facessimo un video trap, secondo me lo guardano in 5. Non è detto. E sono anche troppo. Sono troppo, bravissimo. Quindi, sono troppo. Ecco, oppure trap. Trap che, io potrei fare trap Tony. Bravissimo. Quello che fa. Meno male che poi quello che fa le battute scadenti sono io, eh. Vabbè, vabbè, dai, facciamo così. Le tue allora sono peggio, eh. Molto. Ascolta, peggio. Dopo questa. Cioè, Fabio, che si è preparato la console, ma è di un... non lo so, mi sembri un misto tra D'Annunzio e... Da chi? D'Annunzio, poeta. Non lo conosci? D'Annunzio. Le conosci il poeta? No, D'Annunzio non ci vado. È un nostro... Sì, lo so chi è. È un nostro amico che... Cioè... Si chiama D'Annunzio. No, si chiama Nunzio. Pensavo si chiamasse Nunzio. Nunzio, però... D'Annunzio, giusto? Siamo D'Annunzio. Vabbè, io ho bisogno di ossigeno, quindi... Senza costole, però. Va bene, va bene. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è un brano di una cantante che si chiama SZA. No, veramente mi sembra che è un uomo. No! È lei, non è, può no, essere un uomo. Forse RZA. C'è un rapper che credo abbia una sigla simile. E ha fatto una canzone con Calvin Harris. Sai che ormai Calvin Harris ormai... si vende a tutti, si dà in giro. Calvin Harris è diventato il nuovo Pitbull. Beh, lui se lo può permettere. Però Calvin Harris, diciamo che fa dei prodotti molto interessanti. E visto che iniziamo, cos'è il... che dobbiamo acquistare? Da Calvin Harris, non lo so, non so, una scopa elettrica, un polti, qualcosa del genere. Prodotti molto interessanti. E tu sei il manager. Beh, magari, se quanti soldi che farei, porca miseria. Manager. Oppure quello che va in giro a vendere i suoi prodotti porta a porta. Sì, porta a porta. Non so, se vuole un disco, un piatto, una posata. Un bicchiere, una forchetta. Allora, andiamo ad ascoltare quindi SZA, che non so se si pronuncerà così, ma probabilmente è un acronimo di qualcosa, perché lei si chiama Solana Imane Rowe, nata in St. Louis nel Missouri. Guarda che c'è scritto come si legge. Come si legge allora? Aspetta, no, devo Size, Size. Scusami, no, a leggere la cosa è questo Size. Questo qua, tu, il primo, è la pronuncia. Size. Perché Size? Se no, scusami, come è scritta la pronuncia si legge, sarebbe scritto se no con la A. Size. Sì, ti dice la prima parola che trovi è la pronuncia. E allora si chiama Size. Fit Calvin Harris. Non mi guardate così, c'è scritto così, che te devo dire? Il brano si chiama The Weeknd, visto che è venerdì, ci sta anche bene, dai. Feeling is reckless of knowing it's selfish and knowing I'm desperate. Getting on in and love, falling all over love. I do it till it's last. Hanging out the back, all of me go last. Like, is you coming home? Is you out with her? I don't care long as you here by 10:30. No later than drop them drugs. Satisfied through the weekend. You like 9 to 5, I'm the weekend. Make a losing mind after weekend. ci siamo, dai. Questo qua è il brano di SZA. Come cacchio si chiama lei? Non mi ricordo mai. Calvin Harris. Sides. Ma Sides non lo so, mi ispira. No, Sides è la taglia. E il praticamente la stessa cantante. Tra l'altro stavo guardando nei brani che avevo selezionato del brano con Kendrick Lamar, All The Stars, che è molto più famoso effettivamente. Una giovane che ha fatto caso. Ma è già da un po' che in giro. Sì, è da tanto che è in giro. E niente, tu Tony avevi trovato qualche notizia interessante questa hai sentito più che altro qualche notizia interessante questa settimana? Riguardando la radio, è tornato un gruppo, si sono riuniti, vabbè, i Prozac più, e faranno rimasterizzeranno l'album di 20 anni fa, dunque anche per Radio Lupo è come tornare 20 anni indietro, cioè... quindi nessuna traccia nuova, solo... Non lo so, qualche inedito live, penso che sarà qualche demo, adesso non ho letto bene. Ah. È un ripacchetto, dai, diciamo vabbè, così. Vabbè, è una... Come quello di Guns, interessante, cioè, sì. Guns, vabbè. Beh, come... adesso non mi ricordo che deve venire, mi sembra, non vorrei dire una cavolata, Rolling Stone, doveva venire a suonare in Italia e hanno fatto adesso verranno poi tutti, inizieranno noi... I vari festival, gruppi, concerti. San Siro mi sembra che quest'anno è molto... è sempre piena. Cioè da J-Ax a... Anche se hanno abbassato... A JC con la moglie Beyoncé. Insomma, ce n'è di un po' per tutti. Bene, bene. Adesso andiamo magari a informarci un attimino in più, giusto per vedere cosa c'è. E andiamo a ascoltare il prossimo brano. Intanto dobbiamo fare ancora qualche prova di volume con te. Non ti scaldare troppo. Ma mi sa anche con la tua base, perché io sento una base altissima. Altissima? No, io la sento giusta. Vabbè. E il prossimo artista è Bazzi, che abbiamo già ascoltato l'altra volta. E il, diciamo, quello che adesso va di più. È il fenomeno del momento, dai, mettiamola così. E il brano che andiamo a ascoltare è Mine, che poi è il brano che l'ha portato al successo. Ma poi è proprio il suo cognome Bazzi. Sì, Andrew Bazzi. Sicuramente, allora è italo-americano. Non lo so, lui è sì, nato italo-americano, sì, sì, non nel Michigan. Michigan. E produce pop R&B. Il brano in realtà è un remix di Genji. Sto Genji. Il Genji. Sembra una roba tipo milanese. Sì. Il Genji. E... Ciao Sabrina. Che ciao salutiamo. Sabrina, uè mia, sono il Genji. Andiamo a fare l'ape. E... Con l'ape. Basta. E tipo giunate. Vabbè, basta. Tu sei sicuro che vuoi fare la... Io sì, voglio andare avanti in modo serio e professionale come stavamo per fare fino a poc'anzi. Andiamo a ascoltare quindi il brano Bazzi Mine. Bazzi Mine. Con il remix di Genji, che in realtà non è né pop e né R&B. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're. My mind. even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a body, yeah. Anche l'originale non è male, non so se l'hai ascoltata, Tony. Te la fanno sentire ovunque. Sì, vabbè. Però il remix c'ha qualcosa in più, non lo so, mi piace. Il Genji ha fatto Genji le cose bene. Genji Scan. Genji Scan. Ma prima sentivo parlare Dick. Eh? Dick? Cosa vuol dire? Sì, Tony ha tirato fuori Dick. No, io non ho tirato fuori niente. Il mio Dick è nel pantalone. No! Guardate che poi dopo succede una cosa. Allora, io quando carico i podcast in generale su poi iTunes devi tagliare. No, non taglio niente. Il problema, sì, sai cos'è? Che non dichiaro che c'è il linguaggio esplicito. E quindi una volta mi arrivano le segnalazioni. Sai cosa potresti usare? Il pulitoni. Il beep. Il pulitoni. Scusa, bippano? No, io non bippo niente, è tutto real. Chi è che te lo segnala? Può essere uno che ascolta, dice, ma questi dicono le parolacce, io segnalo. Perché se no dovrebbe segnalo, mettere clean explicit. Esplicito. Secondo, mettilo, tipo che so, sì, dovrei iniziare a metterlo. Perché qua... Quando io mi ricordo, quando ho comprato il primo album di Eminem, era uno dei primi che vedevo la E. E dicevo, ma cos'è sta E? E poi sono andato a informarmi, era explicit lyrics. Ah, non c'era il bollino a parental advisory? C'era, però c'era sta E, che dicevo, ma cos'è sta E? Cos'è sta E? Non ce l'ho presente, sai. E la E è explicit lyrics, okay. Cioè vuol dire linguaggio, diciamo, terra-terra, come hanno scritto la canzone è rimasta. Così è, così rimane, non è stata tagliata. Va bene, tu ti sei preso un po' d'aria, sì. Il buon Fabio è ritornato anche lui dalla sua boccata d'aria, avete inquinato un altro po'. Sì, ma Fabio, allora tu vuoi parlare alla radio, no? Ogni tanto vuoi dire anche qualche cavolata. Metti ste cazzo di cuffie, porca miseria, che non ti si sente. Va bene, intanto ma che... peggio è che si vede. Noi sì, però dai, oggi che non poi ci si parla vede. Di là. Per quello, se tu ti metti le cuffie lo senti se parli o non parli, capite? Solo per quello. Se n'è andato sconsolato. Non se la sentiva. Non ho parole. Vabbè, intanto... Ancora parla qua. Non parlare là, non si capisce una minchia. Beep, beep. Oh, Bravensburger. Questo è bello, Bravensburger. Bravensburger. Ecco. Sì. Mamma mia, Tony, ma cos'è che hai fumato? No, Tony, scusami, Fabio, cos'è che hai fumato? Una ciminiera intera, madonna mia. Ma lui è già tutto bruciato. Madonna mia. Oh, adesso? Oh. Prova a parlare. Vedi? Adesso capisci se ti si sente o non si... Se sì, parli da lì in fondo, giustamente dici, oh, non mi si sente, ma guarda un po'. Ma che strano. Forse c'è qualche problema. Va bene, dai, continuiamo con un po' di musica e... Boh, Ma oggi sei molto spirituale perché ho visto la canzone. Hai visto? Da... Cioè io mi tocco anche... il gruppo si chiama Black Saint, perché è spirituale? I Santi Neri. È quello prima di When Dio. The Sing quello è God Explain, quell'altro... Quelli se vengono forse, boh, chissà perché... Cioè, ma questa... Scusa, è la Spiritual Night. È un venerdì nero oggi, no? Non so. Spiritual Night. Il brano si chiama Ante Up e in teoria dovrebbe essere una roba rap, perché se guarda lì in faccia di me ante, se non sono... Sulle ante. Ante Up. Anti-rap. Beh, ma c'è... Ormai penso che il rap di adesso sia anti-rap. Anti-rap, ma a me piace di più adesso che prima. Avevamo tirato fuori quell'articolo che avevi messo della musica nuova, no? Sai che abbiamo paura della musica nuova. Sì, ecco, sì. Secondo me questo programma è proprio il... come dire... l'antitesi di quell'articolo lì. Senza, noi proponiamo solo musica nuova, essenzialmente. Non dovremmo far paura. No, potremmo far paura, però c'è un motivo. Ah sì, è vero, però potremmo far paura perché comunque è tutta roba nuova. Vabbè, andiamo ad ascoltare quindi Black Saint con Ante Up. Non so come si pronuncia. Fit ma... Rational. Sì. I'm done wasting time. When I lost your love, I lost a piece of me. And I burned like fire when you left my life. And the world kept turning, turning. Wherever you go, I'll always treasure everything we were when we were together. Hand on my heart, if you let me love you, I promise you that I'll empty you, empty you, I'll empty you. I'm not giving up, but I can't deny I betrayed your trust and placed your dignity in the line of fire. I know I can't rewind. Can you hear me calling? Wherever you go, I'll always treasure everything we were when we were together. Hand on my heart, if you let me love you, I promise you that I'll. If you let me, I'll ante up, ante up, I'll ante up. Okay, I ante up. Me not all back, me give it all. You not pick up the phone, me know nah. So me call your sister and your brother. Oh, like, awkward, awkward. Told me that you're doing much better now. Broke up with the man from Basildon. Said he never ever wanna settle down. Just give me that chance and now. Me not sip on the face now. Me walk through the flames just so we can only work it on them now. I have to say yeah, I could wait forever to the day you say yes, say yes. Oh, I ante up. Wherever you go, I'll always bear everything we were when we were together. Hand on my heart, if you let me love you, I promise you that I'll ante up, ante up, I'll ante up. If you let me. If you let me, I'll ante up, ante up, I'll ante up. Wherever you go, I'll always treasure everything we were when we were together. Hand on my heart, if you let me love you, I promise you that I'll ante up. If you let me love you, I promise you that I'll empty you. Intanto c'è Fabio che ha colonizzato tutto lo spazio degli speaker. Come no? Sì, sì, tu parla che ti si sente. No, ma io non ti sento. Non mi senti? Cos'è che ha combinato Fabio? Ma non lo so. Ok, adesso... vabbè, dai, ho smanettato un po' con i pulsantini qua. Avere troppi DJ... Ma infatti c'è un casino qua, quanti cacchio di cavi hai messo? Io non lo so. Abbiamo ascoltato quindi il brano che non mi ricordo più, di Black Saint Ante Up. La parte finale sembra un po' Michael Jackson. Ma te l'ho detto, e loro sono dei rapper, pensa a te come sta cambiando la musica in meglio, secondo me, in questo caso. Perché non era per niente hip hop o rap quella roba lì che abbiamo ascoltato prima. No. Beh, ormai è tutto generalizzato, non si può. Beh, il rap ormai. Credo che il rap è finito nel 92. Come il rock. Per me tutto è finito nel 91-92. No, dai, ma... Sì, ma tu sei tragico, Tony. No, beh, adesso. Tragitoni. Tragicomi. Va tutto a Troie. Va tutto. Troie Sylvan, va tutto a Troie Sylvan. E che è l'artista che andiamo a ascoltare Mago dopo. Sivan. È un ragazzino. È un ragazzetto, sì, 95. Un ragazzetto del 95, Sudafrica. Potrebbe essere tuo fratello, Dom. Sì, è vero, visto che le mie sorelle sono nate in quell'epoca lì. Non sembra del Sudafrica. Non sembra del Sudafrica, anche perché proprio, diciamo, non ha i lineamenti del Sudafrica, però vabbè. Ha fatto questo brano che si chiama Mai Mai Mai, che non è il brano Mai Mai Mai. Come cacchio? Allora, ci sono anche i Colors che hanno fatto Frida, no, Mai Mai Mai. Senti, non voglio neanche sentire parlare quel gruppo lì. Ah, dillo al tuo amico là che gli piace, che sono, no? Che lui è il fan numero uno. Anche Iacqua ha fatto un disco che si chiama Mai Mai Mai. No, sì? Devi Mai. Oh, my single wanna say goodbye. Intanto sentite una scarpa che vola contro Fabio. E l'unica cosa, no, il brano è bello, il video è bellissimo. Perché c'è scritto official video. Il video, no, il video è bellissimo. E l'unica cosa è che lo stanno, anche lui, le radio lo stanno iniziando a passare come se fosse uno spot pubblicitario praticamente. E vabbè, ma non è che tu puoi pretendere che sei l'unico che mette il pezzo. No, tu no, puoi no, essere no, no, avanti, ma... No, no, no, sono contento che comunque ha fatto successo quello che è. E che, diciamo, sarebbe bello ascoltarlo ogni tanto, ecco, mettiamola così. Perché non è proprio un pezzo di quelli che diciamo, me lo ascolto mattino, sera, pomeriggio, notte... È un pezzo da ascoltare, sì, magari carino. Magari adesso uscirà fuori bene per l'estate. Perché ho visto che alcuni pezzi, che sentivo quest'inverno, che sapevano già di estate come musica, però li mettevano ogni tanto. Adesso... Dice, hanno fatto fatica a prendere. No, no, no, no, in senso, credo boom, che è una strategia apposta per aspettare questo periodo. Perché adesso credo che ormai così diventano poi uscite, tormentoni. Le uscite sono ferme, cioè maggio-giugno, si andrà avanti così fino ad agosto, poi sì, ci sì, sarà nuova musica verso agosto-settembre. Sicuro. Credo. Va bene, va bene. Intanto stiamo superando il giro di boa della giornata, eh. Ci siamo quasi. Noi anche oggi l'abbiamo fatta. E anche per oggi la prima parte l'abbiamo fatta. No, ma dai, la seconda sarà un po' più rilassante, ma oggi deve forse passare il Giro d'Italia in queste parti? No, no, non perché penso. Perché stanno asfaltando ovunque. Veramente. Adesso andiamo a fare un controllo. Domani mi hai fatto venire è un la penultima tappa. Dunque, no, secondo me no. Una crono. Non so, era una Bardonecchia, credo, questa storia. No, come fanno a passare qua? Dai. Non so, beh, a parte che la crono finirà a Milano, come al solito, credo. Beh, comunque, vedremo in caso che... Vabbè, andiamo a ascoltare quindi il brano di Troie Sivan. Non mi ridare. Ah, Sivan. Sivan si con... Sivan. Sivan, Sivan. Sivan. Sivan. Mai, mai, mai. Bravissimo. Shine on, diamond. Don't make me wait another day. 'Cause passion is passion. You know it just as well as me. Now let's stop running from love, running from love. Let's stop, my baby. Let's stop running from us, running from us. Let's stop, my baby. Oh my, my, my. Buzz cut, I've got my tongue between your teeth. Go slow, no, no, go fast. You like it just as much as me. Now let's stop running from love, running from love. Let's stop, my baby. Let's stop running from us, running from us. My, my, my. Last night ever, should be the last night where I park. Got my name on this treasure, on this treasure. Oh my, my, my. Che bello, che bello, bello, bello. A me piace, a me piace. Sì, no, vero, vero. Sì. Ti ripeto, non è un pezzo che devi ascoltare 3000 volte al giorno, perché ci sono certe radio che... Sì, dopo, alcune dopo lo passano dormito. Veramente, scusate. Niente, vai tranquillo. No, vabbè, come tutti i pezzi, credo. Però io una volta al giorno me lo ascolto volentieri. Diciamo, vale. Ma lui lo ascolta mentre va in treno, stai dormendo. Lui dice, sì, infatti. Oh mio, cosa fai, mi spidi? E perde l'anello. No, credo di conoscere le tue abitudini. No, ultimamente sto in treno, mi sto guardando le serie TV. Poi quando finisce la serie TV, che magari il treno ritarda. Cosa guardi? Cosa guardi? No, lasciamo stare, perché ne guardo troppe. Sto guardando... Cioè, hai quella adesso c'è una malattia che si... Che... No, non è una malattia la mia, no, è un passatempo sul treno e basta. Ok, vabbè. No, no, no, no, no, aia, aia. A casa pure le guardi? C'è proprio una malattia su questa cosa delle serie TV. Poi vedrò il nome esatto della parola. E no, stavo dicendo, quindi poi quando finisce la serie mi ascolto la musica, ma dormetto. Ma sicuro. Dimmi almeno una serie, dai, io sono curioso. Sì, no, no, sto guardando Arrow. Che bello. A me piace, non è male. Vabbè, stai guardando un po' di... Hai trovato un po' di news interessanti, vedi? Sì, guardavo un po' il nuovo disco di Lenny Kravitz con la voce di Michael Jackson. I 45 anni dell'album di Mike Oldfield, Tubular Bills. L'abbiamo detto in ingresso. L'abbiamo detto prima, però detto io sai che non me la ricordo, no, no, niente, quella niente. Canzone. Beh, adesso ci sono un bel po' di notizie, devo dire. Dopo me la fai ascoltare. Sì, va bene, va bene. Mamma mia. No, ma l'ascoltiamo un pezzettino. Guarda, un pezzettino la recupero mentre parlate. Che sì, poi... no, comunque abbiamo anche già messo, in è realtà. È la musica dell'esorcista. Per chi sì. non lo sapesse. È per quello che ti ho detto, sicuramente la conosci. Beh, sì, lui è diventato famoso con questo, cioè... A parte negli anni 80 che ha fatto Moulin Shadow. Questa carta, se no io che te la ordino. Mi sa che anche il computer non parla. Allora, lui aveva fatto Moonlight Shadow, sì, effettivamente. Dell'album Crisis 1983. Però il brano in realtà che l'ha portato al successo dovrebbe essere no, questo diciamo quello... Sì, no, aspetta, vediamo se... Non so se riusciamo ad avere il contributo audio. Non si sa. Eccolo qua. Questo è il brano di... No, ovviamente non è... Non è profondo... No. No, no, no, no, no. È l'esorcista. È l'esorcista, l'esorcista. Profondo Rosso è quello che fa... Questa carta. Ok. Profondo Rosso è quello dei Goblin. Sì. Che avevano fatto anche... Io le confondo sempre. È un gruppo italiano. Sì. Non so perché, Simonetti. Io le confondo sempre. Anch'io. Io ho fatto sempre questa confusione. Ma perché è simile, no, anche l'anno di no, Dan. Non è simile, perché se tu poi ci pensi, non è simile. No, ma è forse... simile la logica della canzone. Cioè, sì, questo... Cioè, un suono che fa... Capite così? Ho capito. Come semplificare un lavoro. Un lavoro. Perché poi Mike Oldfield... Mi sembra che nel suo album, primo album, comunque sa suonare 15-20 strumenti diversi. No, no, lui è un po' l'istrumentista, una... come Lenny Kravitz. Sì, sì. Ecco, vedi? Sì, diciamo è simile, che... è simile, è diversa, cioè ovviamente la melodia è diversa, però è simile. La logica della canzone è quella. Sì, esatto. Vabbè, adesso lasciamo stare l'horror che qua c'è già... Tutta... Cioè, proprio la puntata, ti ho detto, dopo i Santi Neri... Vabbè. C'è gli orrori bianchi. No, c'è horror. Intanto tu volevi ricordare invece che domani c'è... Cosa c'è? Ah, la finale di Champions. Vabbè, ricordiamola così, giusto, non è il nostro programma, non parliamo di calcio qua, però vabbè, giusto per... Sì, per così come informazione. Real Madrid, Liverpool. Vabbè, vabbè, amen. Tra l'altro... Stasera dormirò più tranquillo, ora che lo so. Bravissimo, infatti, era proprio quel senso della io devo dire una cosa, notizia. Poi chiudo. Vai. Mi sa che non sono poi juventino. Basta, chiudo il discorso. Vabbè, andiamo... Io non l'ho capita, ma va bene. Nemmeno io, però fa niente. Andiamo in Puglia, dove... No, non è vero. Andiamo a ballare Puglia. Cos'è che è? No, perché adesso una delle canzoni dell'estate è il nuovo singolo dei Bundabash. Che ah, sì, quello con Loredana Bertè. Sì, ma sì... sinceramente non... Non mi dà proprio tanto digestivo. Ma no, a parte quello... A me dà un po' di digestivo, più che altro. Sì, ma è proprio che questo si siano proprio venduti. Cioè, loro facevano un reggae molto diverso. Ma io ho ascoltato il pezzo, non è male, non è no, non dico che non è male, però sono quelle cose mi sento che... un po'... Stasera... Cioè, come lo stato sociale, che il cantante era contro i come si chiama? I vari X-Factor, sì, adesso sarà forse il prossimo... Uno dei prossimi futuri... Vabbè, io mi ricorderò sempre. Io ci sono rimasto malissimo. quando ho visto J-Ax, scusami, Fabri Fibra, che era ad Amici. Cioè lui, se tu ascolti le sue canzoni, penso che sono 100.000 riferimenti, ma proprio pesanti, su che è contro i talent, contro Amici, contro Maria De Filippi, e dopo va lì a fare l'ospite. Dici, vabbè, ma anche tu che lo guardi, quando no, c'è il re denaro di mezzo, vedi che arrivano tutti. Comunque stavo dicendo, andiamo in Puglia perché il prossimo artista è Mnek. No, in realtà no, non credo che sia pugliese, ma lui è inglese, vediamo, di Londra. Di Londra, oh, finalmente. Oh, no, è perché... scassato le palle con su Londra. Pensa che aveva anche cantato, partecipato comunque alla realizzazione del brano di Ready for Your Love con i Gordon City, che è un pezzo abbastanza famoso. Tra l'altro, tu sei stato anche a rimettere. Londra. Sì, tu sei stato a Londra. A Londra ero a South Poi ho visto, le collaborazioni e c'è tutta la lista dei nomi più importanti della scena. Sì. No, se vai un attimo su. E poi ha deciso anche di... Madonna, Kylie Minogue, Dua Lipa, Diplo. Sì, come scrittore e produttore. Ah. Invece questo brano qua è proprio un brano suo. È suo? Sì. Scritto e musicato da lui. Vediamo se c'è qualcun altro. No, ma infatti è vero, perché poi tu dici, c'è il cantante, canta, però adesso tutte le produzioni hanno una sfilza di nomi... Non è più... Cioè, è vero. Cioè, sono dei progetti. Sono tutti progetti. Dei Cristiano... è tipo Cristiano Malgioglio questo qua. Sì. Proprio così. Perché Cristiano Malgioglio scriveva le canzoni, era un paroliere. Gli piace il gelato cioccolato. Questo non lo so. No, è che non gli mi è piace saperlo. Suo marito gli piace. Si è innamorato. Potremmo metterla qualche volta. Ma anche no, direi. Dai! Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. La propongo. Sa qualche bootleg, dai. No, sai che parlavamo di fare l'ultima puntata con anche io e Deborah con canzoni. Io la metterò. Ah, beh, l'ultima puntata è che faremo un degenero. Tu ci sei l'8 giugno? Sei già via? Direi proprio. No, è via, ragazzi. Dipende come sono organizzato con tutto quanto. Se faccio in tempo a far tutto, sì. Dai, che se ci sei, faremo l'ultima puntata l'8 giugno, lo diciamo ufficiale. Ma lui parte il giorno dopo? Appunto, ho detto, se è organizzato che riesce a esserci, viene. Per la sera. Aspetta, se devi partire. Sì, perché tanto parto nel pomeriggio. Devo imbarcarmi alle 23. Ah, che cazzo, alle 23. Alle 23 delle 9? Del 9 o dell'8? Del 9. Ah, allora ci sarà sicuramente. Sicuramente ci sono. Voglia. Dai, che facciamo l'ultima puntata. Facciamo party. Lo fissiamo già party. Su Facebook. Infatti, l'ultima puntata è che party, facciamo un party. Non battere, Tony, perché il microfono casca. Vabbè, andiamo ad ascoltare quindi Mnek. E dopo magari entriamo con lui alla console. Dai. No, lo annunciamo, dai, prima. Lo annunciamo. Sì, lo annunciamo. Quindi il prossimo brano è Mnek con Tongue, lingua. Eccolo qua. We both know there is something going on. There is something going on. Didn't wanna stop this verse with those three little words. Cause we both know there is something going on. But I don't wanna play it wrong. So I'm not gonna say it. No, I don't wanna say it. I don't know how you'll take it, so I'ma try not to say it. Cause when I've said it in the past, each time it didn't last. So I'ma try not to say it, but it feels like I might say it. So I'm putting both hands over my mouth. I can only hope nothing's gonna come out, but there it is on the tip of my tongue. I think I love you. I think you're the one. I'm putting both hands over my mouth. I can only hope nothing's gonna come out, but there it is on the tip of my tongue. I think I love you. I think you're the one. No big deal. Explaining how I feel. I don't know why, and it's taking us so long. Why it's taking us so long? So much hesitation. I think you're the one. I'm putting both hands over my mouth. I can only hope never stop. might be the one. I'ma try not to see it, but it feels like I might say it. So I'm putting both hands over my mouth. If I'm gonna come back, I'm the tip of my tongue. Think I love you, I think I love you. No, niente, sto perdendo la partita al gioco, porca miseria, ma io non lo so. Che partita? No, lascia perdere, lascia perdere. Ma porca miseria, stavo vincendo. Vabbè, niente, top così. Top 11. È il giochino quello del calcio. Perché tu fai il gioco del calcio? Ma sì, una volta al giorno. Pareggio. Vabbè, niente, comunque il... Prendila. Comunque il brano era di Mnek con Lingua. Basta, o Tongue. Palle, Tongue. Una Tongue. Scusate. Grazie, poi mi punge. Vabbè, mamma mia. Al massimo ti fa una puntura. Quindi se non siamo a Wolf Trips, di non siamo certo da te non vengono. Infatti no, le zanzare spesso vengono da me. Perché c'è sangue buono. Comunque... Il resto che è brutto. Esatto. Dammi la mano, Tony. Grande. Dai, annunciamolo, dai. No, comunque sta dicendo che siamo a Wolf Trips, non siamo alla zanzara. Non mi ha ascoltato nessuno, però era una battuta carina. Va bene, niente. Quindi adesso ascoltiamo un po' di musica mixata by... come ti fai chiamare tu? Vabbè, Fabietto. Fabietto. Ma cioè, sì. un nome... Ma scegli un nome caratteristico. No, ma il vero nome qual è? Dillo. Virtual Demon. Virtual Demon. DJ Virtual Demon. Ma poi c'è la versione anche completa? Cioè, Virtual Demo, poi c'è anche la versione completa? Sì, c'è la versione Full Demon. Ma ci vuole la crack? Sì. No, è craccato lui. Faccio il crack. Sì, lui si spezza. Curiosa, peggio di un grissino. Va bene. Infatti, quindi... l'altro mio soprannome è anche Rio Mare. Mi spezzo con un grissino. Vedi, dopo questo sono caduti anche i microfoni dal rumore che avete sentito. Va bene, dai, allora faccio ascoltare un po' di musica che vuoi tu. Poi dopo hai anche un intro, anche... Avrà un intro. Beh, è preparato come qualcosa come intro. No. Parti subito in cassa, sì, va. Così. Va bene, vai, tutto tuo. Right. il nostro DJ Fabietto. Non siamo a Ibiza, siamo a Samarate, e questo è un bellissimo passaggio del nostro Virtual Demon. Primo pezzo Stone Bridge, a seguire dillo te, dai, DJ ATB con Fields of Love. Anzi no, ho cambiato Motorcycle. È emozionato. Live. Virtual Demon ci sta proponendo un suo DJ set, lo troverete anche su una nave delle navi grandi veloci, però non credo che metterà su questa musica. Eh no. Ha trovato anche uno dei miei pezzi preferiti, proprio stile Ibiza, non c'è niente. E gruppo ATB. Che brano è questo? ATB. Ah, ATB. Field of Love, 1999 o 2000, se non mi ricordo. E suona molto attuale ancora. Vabbè, andiamo ad ascoltarcelo allora. We'll be right back. Scusa, non avevo capito, scusami, mi ero perso un attimo. Eravamo qua tutti pronti. Ah, non avevo capito, io ho detto boh, non mi sembra una pausa questa, quindi stavo andando avanti. Questa è una questione molto indigesta. No, perché? No, okay, indigesta no. Magari un po' per la radio, ma a me piace, non è che... No, anche a me piace, no. Abbiamo messo un po' di musica diversa dal solito, sì. Radiofonicamente parlando. Sì, arrivo l'estate. Ci sta, ci sta. Infatti vedremo. Dopo ne ho una ancora diversa io. Sì, l'ultimo pezzo sarà il suo. No, come abbiamo fatto settimana scorsa, che non è stato male. Ma scorsa abbiamo messo il pezzo di... Paracetamolo. Tachipirina. Tachipirina. Oh, beh, Prozac più ci sta. È la stessa cosa, anche perché, scusami. Guarda che nel brano sì. Non dice paracetamolo all'inizio, no. Dice tachipirina. Sì, perché fa un elenco delle medicine, penso. Vabbè, lo stesso, è il paracetamolo, è il principio attivo della tachipirina. Tony versus Young Tony. Young Tony. Andate a quel paese. No, ma perché lui comunque ma chi, Young Tony? Young, no, no, il signorino lì fa uso di tutte queste robacce qua, no? Vabbè, vabbè, vabbè, la tachipirina anch'io la uso. No, ma lui è andato anche in coma per queste cagate qua, cioè. No, ma stiamo parlando di due cose diverse. Lui, sì, lei sta parlando allacciato. Lei sta parlando di Calcutta. Che c'entra che è andato in coma? No. Paracetamolo, il pezzo che abbiamo messo settimana scorsa di Calcutta. Sì, tu stai parlando di Young Signorino invece che è tutto un altro rimbambito. Ma parlo di pastiglie, queste cose qua. Sì, ecco. Sì, sì. E comunque il paracetamolo è la tachipirina. Ok. Ho capito, ho capito. Vabbè, niente. Tanto qua, come on. Se ne aiuta il pezzo di... First Wave High Tonight. Ok, ok. E niente, poi dopo invece ascolteremo anche la mezzatonica mixata, sì, giusto? Due, tre cose. Vabbè, due, tre cose. Bene, due, tre cose. Vabbè, due, tre cose per uno. Fammela nessuno. No, se ne diventano sei. Due, tre cose per uno. Vabbè, su se pezzi. Ho sempre le due o tre vicinanza cose. La vicinanza di sì, Stefano. Di Stefano. Chi è Stefano? Sì. Sono stanchissimo. Sì, sono vicino. Volevo dire che Domenico vicino a lui diventa... Chi va con lo zoppo? Sono due piedi, dunque va con lo zoppo. Va con lo zoppo. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, così ci rilassiamo un attimo e tu ti prepari, dai. Ma sì, dai. Dopo qui io direi che anche già subito dopo questo. Perfetto. Ti lancerei nel turbine del mixaggio. Dalla finestra. Esageriamo, che qua, qui io qua sono il più scasso di tutti. Devi stare più in qua perché non ti si sì, sente. Sì, ti sente poco. Ma anche io il cuffio mi sento poco, quindi. Ci sarà un motivo, no? Ci sarà un perché. No, non è cioè non è ironico il mio commento. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano che è di Charlie Puth, Done For Me. Charlie Puth. Si chiama così. Done For Me. Hai ragione. Fit Kelani. Di chi è il telefono che è suonato? Aia, il telefono adesso la verrà defenestrato. E l'amante. È l'amante del religioso. Andiamo ad ascoltarti quindi Charlie Puth con Done For Me, se sennò qua mi ammazzano. What you thinking? You think that you could be better off with somebody new? No, oh, oh, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. No, oh, oh, baby, no. I won't beg for your love. Won't say please. I won't fall to the ground on my knees. You know I've given this everything, baby, honestly. Baby, honestly, I lied for you, baby. Died for you, baby. Cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby. And only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. I never cheated. Tell me what you've done for me. I lied for you, baby. Died for you, baby. Cried for you, baby. E niente, dobbiamo sempre cazziarti a te. Mamma mia. Ecco. Mamma mia, con quelle cuffie ancora non ti avevo visto, Fabio. Come sono sexy, vero? Sì, proprio, guarda, una cosa fina. Una cosa white. Infatti me l'avete proprio messo pure di fianco adesso. Vero? Cioè. Ma no, povero Fabio, dai. Allora. Insomma, dai, sì. Va bene, quindi allora il momento. Come ti chiamavi tu, scusami? Demo? Virtual Demon. Virtual Demo. Ok. Demon. Demon? Sì. Ok. Pensavo Virtual Demo. Sono sempre fissato su. Invece adesso passiamo da un virtual demo a Young Signorino. No, scusami, a Young Tony. Volevo dire, questo è stato un lapsus freudiano. Volevo dire Young Tony. Sì, comunque io mi farei chiamare Gin Tonic. Però vabbè. Tony, come Tony se la tira, mamma nome mia trap. Tony, comunque si vede che c'è rimasto sotto quello lì. Eh sì. Cioè, già dalle canzoni che fai, da come sei messo, cioè, nulla di buono. Diceva me o quello di prima? Young Signorino. Young Tony. E a me non proprio non. Oppure Young faccio? Tonino. Non sarebbe male. Senti, Young Tonino. Ecco, partiamo con la musica che è meglio. Sempre la mezzatonica questa. Sì, mezzatonica versione live. Dai. Yes. Vai. Thank you. questo qua è il brano Caffè de Mar, giusto? Energy 52, il solito Energy, che hai messo anche settimana scorsa. Beh, sì, bello, bello. Sono 20 anni che festeggiamo. Mi piace. Sì, grazie, grazie. Ma guarda che questo qua è il remix che hai messo settimana scorsa. No, no, no, no, no, assolutamente. Sei sicuro? No, no, questo no, non è il remix come si. Beh, comunque il remix è di Nalin. No, che e poi Kane. Non l'ho messo settimana scorsa. Sì che l'hai messo settimana scorsa. Adesso vado a recuperare il podcast che potete ascoltare su Mixcloud o sul sito di Wolf Trips. No, senti questa, ogni cosa può essere podcastata contro di te. Giusto, è vero. Ma che bravo. Vabbè, dai, ascoltiamo il pezzo. Andiamo ad ascoltare il pezzo. bella. Mi è piaciuta anche questa. Mi fa piacere che Domenico sbadigliava. No, è la stanchezza. Non a me fa piace. Piacere che sei tornato qua di fianco a me. No, dai. Ho fatto giusto due cavolate. E mi hai lasciato sotto, qua sotto... Fabio. Vabbè, non è che... È sempre meglio di tanti altri, eh? Vabbè. In che senso, non ho capito? Stavolta ero cuccia, sono stato zitto e buono, quindi... Bravo, certo, bravo. Con la musica che ho messo, disgraziato. Appunto per quello. Adesso, vabbè, chi... sono pezzi straconosciuti. Sì, sì, sì, sì. Questi sono tutti i pezzi del 90. Questo non abbiamo detto che brano è, però, Greece 2000. Grecia Grisù? 2000. Grecia 2000. Greece 2000. Greece 2000, è giusto dire Greece. Cioè, Greece. Avevo capito Grisù, te lo ricordi Grisù? No. Dai, è il draghetto, quello che voleva fare il pompiere. Bene, comunque, erano tre pezzi, del 98. 20 anni fa, chi andava a ballare... Sentiva questa meraviglia qua. Queste meraviglie qua. E adesso invece te tocca Despacito. Va bene. Finirà il fenomeno trap, finirà il reggaeton, trap. No, reggaeton non lo so, se me dura ancora un po'. Il trap no, è una cosa più... Ti ricordi la dubstep? Skrillex, quanto è durato? Non è durato tanto. Quanto la rimpiango? Beh, rispetto adesso sì. Sì, veramente. No, io non tanto. Non andavo pazzo, di te la verità. No, perché c'era quella... C'era troppo... Ma poi erano i primi periodi che poi... Si sentiva la trap, cioè, che era totalmente diversa da quella di adesso. No, io dico la dubstep. Sì, no, ma dico la dubstep, cioè. Ah, sì. Iniziavano a dire trap, però era completamente un'altra cosa. Non era Young Signorina. Vabbè, no, vero. NCS, non va ci bene. Siamo, non Dai. Ci siamo. Vabbè, adesso cambiamo un po' musica, ritorniamo a fare un po' di Wolf Trips mood, mettiamola così. No, mi piace la canzone che viene dopo, anche lei, Tabias. Ah, pensavo quella L'ho che sei in base. Ho già buttato l'occhio prima. Quella della base è Clash. Sentiamo. Rotte Casbah. Ricordiamo settimana prossima che il nostro Domenico presso Casolate Sempione farà un DJ set in una, come si chiama? Silent Disco. Silent Disco, insieme a Annalisa e credo Giorgio, non sì, so. Sì, sì, sì. Ci proporrai tutti i pezzi più famosi rock e non. Rocche. Rocche. Io farò il DJ set rocche. Rocche. Rocche. Credo che metterà qualche remix, ma non lo so, che io lo fulmini se lo farà. No, qualcosa sì, dai, qualcosa sì. E tempo permettendo. Per... Speriamo. No, dovrebbe essere bello. E la settimana dopo non dovrebbe essere bello perché qua a Samarate c'è una bellissima festa che però diciamo che porta sempre pioggia. È una cosa impressionante. Avete sempre parlato di questa cosa qua. C'è la festa della birra, insomma, possiamo dirlo. Tanto è come il primo maggio, diciamo, che è una giornata così. Sì. E la settimana dopo, quindi la settimana che faremo l'ultima puntata di Wolf Trips e poi c'è andiamo la festa a del... venerdì, sì, sabato sì, e domenica, anzi vi proporrò poi di andare a mangiarla. Sì, sì, certo. Sì, si mangia bene. Il problema è che solitamente c'è, è risaputo che quando c'è questa festa piove. È ciclica la cosa. Ma non è che piove, che pioviggina, proprio diluvia. Ma infatti ho letto che saranno giornate calde, però di sera... Temporale. Adesso non so da qui a quanto. Allora, da una parte è meglio almeno che rinfresca un po'. Sabato e domenica po', credo che è così. Sì, no, sì. Però per i locali estivi adesso è una tragedia. Vabbè. Io spero che sia bello di giorno perché vorrei riprendere ad andare a nuotare in piscina. Almeno quello. Sennò sai che il temporale non è proprio il massimo. Beh, nuoti, l'acqua c'è sempre. Perché? Hai deciso per il nuoto. Sì, allora. ho deciso. Ho avuto una crisi mistica sportiva in questi giorni. Poi dopo te ne racconterò fuori onda, perché non è che interessi poi nel mondo del web dove diffondiamo il podcast, non gliene frega niente a nessuno di sta cosa, fatto. Quindi lasciamo stare. Dai, passiamo alla musica. Passiamo alla musica, il prossimo pezzo è di Dua Lipa, New Rules, brano ormai strasentito e risentito. Anche su qua. Anche qua, però il remix è di... Questo qua non so se l'abbiamo già messo, sì, di remix. S.G. Lewis. Sì, S.G. Lewis. Sì, sì. No, abbiamo messo il pezzo di S.G. Lewis, ma non il remix. Questo sicuro? Remix. Yes, abbiamo messo Aura di S.G. Lewis, però non abbiamo messo questo remix. Andiamo a ascoltarlo, poi mi dite se abbiamo, se mi è venuta l'Alzheimer o meno. Va bene. Può essere. Talking to me. my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. Forwards, but he keeps pulling me backwards. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. Quindi ti è piaciuto questo remix? Stavo parlando di cose nostre, cose. No, lo sentiamo dopo. Tanto abbiamo una decina di minuti, quindi... In chiusura il brano che hai selezionato tu. E poi vediamo. Io sinceramente non conosco la musica dei cose. Coma cose. Mica l'allegria stasera. Si riconduce a Young Tony. Young Tonino. Però ti potremmo soprannominare così, dai. Prossima volta vengo anche io con le scritte in faccia. Se vuoi te le faccio io col rossetto. No, poi la Debora si incazza. No, dai, lo sa. Anzi, la saluto che ci sta ascoltando. Ciao Debora, ci vediamo tra poco. Sì, infatti dobbiamo andare a magnare, che diamine. Va bene, quindi vi è piaciuto questo SG Lewis remix? Stasera abbiamo passato ben due pezzi, non è da me, di questo tizio qua. Abbiamo foraggiato la sua conoscenza. Beh, io ho visto adesso che comunque sono usciti un po' di tempo un po' fa. Un po' di remix. Fine 2017. Però è sempre bella, ci sta bene anche d'estate. Sì. È fresca. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano prima del brano in italiano. Abbiamo deciso che l'ultimo brano sarà quello in italiano. E l'italiano che te lo sei lasciato a casa. No, che ho detto? Mi sa di sì. Sì, hai detto. Beh, ti sei un po' incartato. Non te lo ridico perché. No, non c'è problema. Il prossimo brano è di Tom Misch con Water Baby. E lui è un cantante. Un cantantaio alternative indie. Ma questo è un invito a, diciamo. Alla pioggia, ecco. No, a palle delle gocce d'acqua, a sete. Water bevi nel senso bevi. Bevi. Perché sennò sarà rain. Water penso che sia sì, più acqua, giusto, vero. Rain e pioggia. E anche lui viene da Londra, pensa un po', 22 anni. Di acqua. Ah, quindi giovanissimo. Giovanissimo. Sentiamo allora. Andiamo a ascoltarlo. Water, baby, swimming with these times, the goose, the tongue, the gray, the sunshine. 'Cause I will live through days that break me, swimming with these times. Grooves, the time, the great sunshine. I'm still trying to write the story as I see it. The trouble is when I say it, they don't believe it. They reckon I can only say it, but I don't mean it. I'm trying to tell them I can only say it if I can feel it. 'Cause money's tight, maybe tighter than it was before. I'm helping out on a mortgage I really can't afford. Family breaking north, I covered the trips abroad. Shaking, I'm making another loss on another tour. But what I done it for? To see my mother in the sun abroad. I run in the trouble that was coming for. My little brother got the hunger for all the exact same pain that makes the rain in my stomach pour. So let me paint it broader. This for any dude who's got a daughter living off lines like your papa taught her. I ain't got no time to be coming for you. Go with the flow of this round the water. Go with the flow of this. Go with the flow of this. Go with the flow with this. Don't you worry. Your leaves won't grow the same. And people might forget your name. Doesn't matter if they do. Don't you hurry. When the hot coffee pours will stain. And when the Uber left you in the rain. The time will come around to you. Despite the stress of spending so much time alone. 'Cause this geography is keeping me at home. When I don't know the way to go, I move with the flow of this running water. This running water. 'Cause I was born a water baby, swimming with these times. The grooves that turn the gray to sunshine. 'Cause I will live through days that break me. Swimming with these times. The grooves that turn the gray to sunshine. Del lupo. E mi sa che per stasera cosa il viaggio l'è finito. È arrivato sì. E non abbiamo dato fuori di testa. È vero, oggi no. Come allora è colpa della Debora? Sì. Non è vero, poverina. No, tanto poi le prendo io, grazie a tutti quanti. Scusami. Non è vero, io la voglio qua sempre. No, vabbè, ma stasera eravamo. Ma sì, la prossima puntata ci sarà, sarà con noi. Ultima puntata la prossima. Che non è venerdì prossimo, no. Ma 8 giugno. Infatti. Settimana se non prossima, siamo squagliati. Ci vedrete, ci sentirete, anzi, sentirete domenico a casa alla Silent Disco. Come si chiama la serata? È Ange Cass. Ange Cass, sì. Agenzia genitori Casolata Sempione. Ok. Beh, che te devo dire? Sei un bravo ragazzo, dunque si fidano di te. Sì, infatti. Mi hanno visto in faccia? Mi hanno visto in faccia. Secondo me no. E mi hanno dato 10. Modesto. Vabbè, bisogna essere, l'importante è essere modesti coi piedi per terra, soprattutto. Giusto. Mi sembra cosa buona e giusta. Va non bene, ho quindi, parole, quindi non ho parole. Visto che siamo in fondo, prima di lanciare l'ultimo brano che lancerai tu, Cristina. Sì. Visto che l'hai scelto tu e ci dirai anche il perché l'hai scelto. Guarda, c'è la finestra aperta lì. Puoi lanciarlo. Fabio, tu dici una cosa e crei il vuoto. Renditi conto, cioè. Vabbè, io comunque volevo fare i saluti. Salutiamo Fabio che ha portato tutto l'ambaradan, rabadan, baradabadam. E adesso dovrà anche smontare, quindi diventerà tutto rabadan al contrario. L'8 giugno gli facciamo portare tutto lui. No, scherzo. Vediamo. No, ma lui, no, così lui deve partire. No, infatti dovrei preparare. Le sue valigie sono già pronte. Sì, giusto. Dunque. Beh, quindi potremmo così come sta, cioè, questo se ne parte via così com'è, quindi se serve qua in radio lo posso portare tranquillamente. Sì, vabbè, ma queste cose tecniche ne discutiamo No, dopo, ma lui non mi piace che lo prendo su queste cose. Vabbè, comunque, grazie del contributo. Del contributo audio e materiale. Materiale, video, audio. Audio e anche visivo, diciamo. No, quello era meglio che non contribuiva, però vabbè. Grande Tony. Poi, saluto a Deborah che mi manca da morire. Vieni, poi torna presto. Salutiamo Young Tonino. Young Tonino, ciao. Salutiamo anche Sabri che come sempre ci ascolta sempre dalla diretta. Ciao Sabri. Ciao Sabri. E salutiamo Tony, no? Young Tonino. Young Tonino. Queste volte sono Old Tonino. Old Tony. No, quando sei il giorno del tuo compleanno sei Old Tonino. E allora ce ne vuole. E poi torni il giorno dopo Young Tonino. Grazie. Ma quindi e quindi ascoltiamo l'ultimo brano, dici un vabbè, po'. Vabbè, ci salutiamo anche io e te. Ah, no? Sì, salutiamoci. Saluti Cristina, saluti Domenico. Ciao Domingo. Allora, lanciamo il prossimo brano, che è l'ultimo, che non è di ultimo, no, ma è di Coma Cose, post concerto. Tra l'altro io l'avevo sentito in intervista, pensa a te, a un programma che faceva Bertallò, ma neanche su Radio DJ, ma da solo. Sai che lui fa adesso sto programma da solo? Anni, e li aveva intervistati live. Anni che l'ho perso di vista. Oh, no, io sono rimasto a B-side, figurati. No, sta facendo Casa Bertallò. Casa sì, è il nome. Ma volevi fulmini e tempesta? Sì. Allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporalo. Sì. Tanto tutto ciclico e ogni mattina si riduce a una sera llevo sulle mie tapparelle che il sole mi traglia di luce. Fame chi mi capisce, cerco nel letto la tua pelle. Proteggimi dal tempo che passa, ho la sindrome da Peter Pan di stelle. Io debole come la carne, tu forte come la verdura. Ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura. Io rimango fino a quando non accendo, no, le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente. D'essere come diamanti invisibili alla gente. La tua testa è un gigantesco centro sociale. Come no? E se per caso stanotte mi gira, io ci vado a dormire col cane. Come no? La luna si riflette nel naviglio gance. Sì. Se mi taglio una cipolla piange. Odio la musica preta per te. Sì, sì. Canche abbaiano, moroder. Quasi inciampo sopra una bottiglia. Apro una porta a Genova senza maniglia. Abbiamo occhi diversi ma uguali. La mia ragazza è bella come David Bowie. Ho ancora voglia di combattere. Garibaldi aveva solo 1000 follower. Questa canzone costa solamente 1000 lire. Di Spotify, tu Spotify stima meglio il vinile. La tua testa è un gigantesco centro sociale. E se stanotte mi gira, io la vado ad occupare. Io rimango. Sento. come diamanti, invisibili alla gente. Io rimango fino a quando non accendo, non le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente. Ah,